Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Comincerei oggi sul Fatto del Giorno con qualche buona lettura. Per esempio quella dell'articolo di fondo di Mario Sconcerti stamane sul Corriere della Sera, dal titolo Regolamento di conti. Molte delle punizioni cadute a pioggia sull'Inter sono soltanto inevitabili, ma per l'ampiezza, la forza e l'eccessiva puntualità hanno l'aspetto di un regolamento di conti. Il messaggio non è quello abituale in casi simili, cioè la punizione rituale di giocatori espulsi. Il messaggio è che è finita la pazienza, che Mourinho è andato oltre nei gesti e nella propaganda e adesso paga. Si dice all'Inter che tutto il calcio ha recuperato unità di intenti grazie agli assalti di Mourinho al Castello. Conviene essere soli contro tutti, essere fuori da una comune idea di calcio? Questo è il messaggio. Non è un problema di giustizia e correttezza, non c'è nessuno che ha davvero ragione in questa corsa all'isteria. È che Mourinho e il nostro calcio parlano due lingue troppo diverse. Mourinho fa della tensione una strategia, alza il ritmo continuamente, cerca la soggezione in chiunque navighi di fianco all'Inter. Il nostro calcio è conservativo e occulto, disabituato allo scontro troppo diretto, con una sua specie di buona educazione gelatinosa, non male gelatinosa. Mourinho cerca l'offesa, vuole portarti sul suo stesso piano, se non affaboli quanto lui, come lui sei peggio di lui anche come allenatore. È lontanissimo dal confronto, lo esaspera. In questa punizione all'Inter, ripeto, praticamente legittima, c'è il segno del piacere di averlo finalmente trovato con un po' di marmellata tra le mani. C'è stato un tempo abbastanza lungo in cui il calcio italiano ha pensato di poter imparare da Mourinho, ora quel tempo è finito. E continua, ma insomma mi pare che sia già abbastanza significativo questo. Ce ne sono parecchi altri su cui vale la pena di riflettere. Se devo sceglierne uno in assoluto è quello di Franco Arturi sulla Gazzetta dello Sport. Franco Arturi è un vice direttore, uno dei vice direttori della Gazzetta, che tra l'altro proprio oggi ha cambiato direttore responsabile nella persona di Andrea Monti. Scrive Arturi: fa male, certo che fa male. Non siamo abituati su queste sponde a tanta inflessibile severità nei confronti dei grandi club. I precedenti esistono, ma sono davvero pochi, dispersi nei decenni. La mazzata sull'Inter lascia storditi, ma va assorbita da tutti, impedendo che si alimenti un circolo vizioso di risposte e controrisposte al veleno, riflettendo almeno in due direzioni. Prima lezione: nessuno può illudersi di raddoppiare la posta dell'arroganza ogni due partite, fidando nella tacita impunità che spesso in altre epoche ha protetto i padroni del vapore calcistico. Un maleducato è un maleducato qualsiasi cifra guadagni. Una gomitata fa danni chiunque la tiri. Un'offesa all'arbitro è un reato sportivo qualunque maglia indossi chi la pronunci. Seconda lezione: nessuno può credere, dopo Calciopoli, che esista una scorciatoia per riequilibrare un'evidente supremazia tecnica. I più forti e i più ricchi meritano stesso trattamento e stessa simpatia di chi deve fare i conti con budget più ristretti. Non si può immettere nel sistema alcun additivo per modificare i termini della competizione. Se il calcio italiano è fuori controllo, non esistono buoni e cattivi a priori e ogni deragliamento dei binari della civiltà va punito allo stesso modo. Il clima nel quale si gioca è pericolosamente arroventato, le moviole vengono usate come magli per inculcare nella testa altrui la verità in modo terminale. Il sospetto è l'approdo comune di ogni discorso. Il tifoso medio accomunato nella sua requisitoria contro il mondo da uno dei luoghi comuni più battuti, evidentemente diamo fastidio. Tutti insieme. E ciascuno sembra confabulare in solitudine, salvo sobbalzare quando, è successo più di una volta, scoppia l'incidente grave magari con il morto. A chi giova davvero e a che cosa serve tutto ciò se non alla progressiva demolizione dell'intero castello? E allora fermiamoci qui, prima che sia troppo tardi. Riprendiamo a giocare a pallone. A giocare. Fausto è in linea da Prato, buongiorno. Sì, buonasera dottor Garanzini. Dica. Era una riflessione che facevo già ieri, prima che uscissero fuori le notizie sulla squalifica scritta a Mourinho, e mi chiedevo questo: già Mourinho si è presentato alla stampa come un personaggio mediatico e quindi ha fatto di tutto per attirare su di sé l'attenzione e distogliere un po', scaricare la squadra dalla tensione del calcio, del campionato. Poi mi sembra ci sia il salto di livello, nel senso che le proteste che l'Inter accampa sugli arbitraggi, eccetera, eccetera, servono ad accompattare un po' lo spogliatoio e la squadra, far passare da vittime tutto lo spogliatoio in modo tale che si aumenta l'attenzione, si aumenta la concentrazione sulle partite future. E quindi sembra anche che però la cosa a questo punto sia sfuggita di mano, perché la stampa non ci ha più creduto, diciamo, al primo passo. Al di là della stampa, Fausto, è una sì, io qualcosa condivido, soprattutto inizialmente, cioè questa era una strategia precisa, è una strategia sfuggita di mano, e anche quella la condivido. Non ci sono soltanto gli ascoltatori che intervengono in voce, ce ne sono molti che scrivono. Diego Lava: faccio fatica a credere che se nel turno degli spogliatoi è davvero nata una rissa o qualcosa di simile, la colpa sia stata solo di una persona. Comunque accettiamo tutte le decisioni e consideriamole corrette e giuste. E adesso il problema sorge adesso, in un ambiente non abituato al rispetto delle regole, una partita in cui le si fanno rispettare rigidamente mette tutti nei guai. Sarà così per tutti? Ci sarà qualcuno più sorvegliato di altri? Spero non si realizzino i miei timori, e questa è la firma di un ascoltatore interista a nome l'ho scritto un ascoltatore interista a nome Diego Lava. Piero ha chiamato da Bari, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini, grazie per la possibilità. Sono un tifoso interista e volevo fare un paio di osservazioni su tutto quello che è successo domenica e sulle conseguenze. Trovo siano giuste le due espulsioni, quella di Cordoba e di Samuel. Ho i miei dubbi sul fatto che una persona onesta, un giocatore onesto e corretto come Cambiasso, abbia potuto anche tentare un pugno, e per un solo tentativo lui ha preso una squalifica di 2 giornate. Credo che questa non sia un'ingiustizia. Se ha dato un pugno ne merita 3-4. Se ha tentato bisogna vagliare e pensare. Due, la seconda osservazione, se Mourinho ha fatto un gesto del genere, se, quello delle manette, se lui afferma che è rivolto a se stesso, nel senso che deve essere arrestato prima di essere fermato, quantomeno chi giudica e dà le sentenze e che gli ha dato 3 giornate di squalifica dovrebbe ascoltarlo, perché se Mourinho non ha neanche parlato, per cui non si può leggere il labiale, non si possono praticamente condannare le intenzioni, nel senso che chi ha giudicato ha detto che praticamente deve essere arrestato l'arbitro, cioè che Mourinho voleva dire che con quel gesto che doveva essere arrestato l'arbitro. Lui invece ha fatto dire dal suo portavoce. No, io non credo, non credo questo, Piero, perché se no non sarebbero state 3 giornate, ma sarebbero state 30 o 6 o 9 o chissà quante. No, io credo che credo invece che sia stato valutato in quel senso, ma le dirò che non, cioè anche mettersi a fare le esegesi delle buffonate di qualcuno poi non è che abbia molto senso, no? Uno, voglio dire, uno prende il gesto, vede che questo gesto è comunque un gesto provocatorio che istiga in ogni caso uno stadio già, istiga ulteriormente uno stadio già in ebollizione, e tanto basta, qualunque cosa poi volesse dire, perché sennò si fa il suo gioco, che è grosso modo quello che sta accadendo da un anno e mezzo circa, no? A queste latitudini. Delle condizioni dell'Inter abbiamo parlato e parleremo ancora nella seconda parte della trasmissione. Adesso è tempo di sapere come sta il Chelsea e di domandarlo soprattutto a Fabio Tavelli. Fabio, buongiorno. Buongiorno a te Gigi, buongiorno a tutti. Non sta benissimo, cioè, nel senso che in classifica sta molto bene, perché oltretutto ha anche preso con grande gioia la sconfitta a Goodison Park del Manchester United. Però non sta bene, soprattutto dietro, una squadra in grande difficoltà da questo punto di vista. E per problemi tattici, anche per assenze, per cose, si è visto, io ho dato un'occhiata sabato alla partita col Wolverhampton, cioè con una squadra di medio-bassa classifica inglese, a lungo era persino imbarazzante la difesa del Chelsea, direi comunque tutta la fase difensiva, in centrocampo compreso. Al punto che ho pensato stessero già con la testa a San Siro, l'avessero preso un po' molle, oppure giocano sempre così? No, io credo che ci fosse in parte anche questo, nel senso di non doversi spremere più di tanto contro un avversario non brillantissimo, non di quelli che ti incutono terrore. Oltretutto, insomma, il Chelsea questa partita l'ha vinta 2-0, il Wolverhampton è in classifica dietro, però insomma ha avuto bisogno di 40 minuti per sbloccare, e il gol del 2-0 è arrivato a 20 minuti dalla fine. Il problema è che l'infortunio di Zirkov ha costretto Ancelotti a schierare questo olandese giovane Bruma, che non ha molti chilometri sul tachimetro. Lo stesso Paolo Ferreira non è schierabile in Champions. John Terry e Riccardo Carvalho dovrebbero essere i due centrali. Il problema è che la mancanza di Essien toglie una diga importante a centrocampo, metti insieme tutto questo e hai una difesa normale. Cioè, in questo momento il Chelsea ha una difesa che non è minimamente paragonabile agli altri due reparti, centrocampo e attacco. Peter Cech rimane un portiere affidabile, ma ogni tanto qualche giornata sì. Di luna storta ce l'ha anche lui. John Terry sembra avere più problemi fuori dal campo che in campo, ma comunque va protetto, non può essere lasciato in balia degli attaccanti. E un conto è se i tuoi attaccanti si chiamano Doyle o Ward o si chiamano Eto'o o si chiamano Milito. Cioè, da questo punto di vista il Chelsea, a parer mio, deve venire a Milano per contenere, nel senso che la forza d'urto dell'Inter, e tutti sappiamo quanto sia straordinaria la potenza anche fisica dell'Inter, in questo momento autorizza a un grande ottimismo, proprio perché al Chelsea mancano completamente le corsie laterali, cioè l'assenza di Zirkov e di Ashley Cole sono due assenze pesantissime, insomma, come quindi, se all'Inter mancasse Maicon da una parte e ovviamente Chivu dall'altra o quello che vuoi tu, insomma sì. sono cose che non si possono regalare. Vediamo se ho capito bene, hai citato Maicon, allora io mi sembra di capire che per sfruttare appieno le debolezze temporanee del Chelsea e quindi fare di questa partita d'andata, non so, il perno su cui giocarsi la qualificazione, l'Inter debba giocare al massimo sulle corsie laterali e approfittare del fatto che manca il metodista davanti alla difesa, cioè Sien. Quindi gli uomini chiave potrebbero essere, ma poi sai che sulla carta tutto si rimescola, potrebbero essere Maicon appunto sulla destra e magari Snyder per la sua capacità di giocare tra le due linee e di approfittare dell'assenza di questo grande giocatore. Ma Snyder sempre, nel senso sì. Che Snyder è davvero il termometro vero della stagione dell'Inter. Credo che l'Inter debba però, ripeto, le partite, le grandi sfide di Mourinho contro le squadre inglesi si sono quasi sempre rivelate partite a basso contenuto di gol, nel senso che sono state molto tattiche, ricordo quelle contro il Liverpool soprattutto sì. Sia in campionato che in Champions League. La mia sensazione è che mentre l'anno scorso contro il Manchester United l'Inter pagò una paura magari anche comprensibile, che era la paura di chi andava al cospetto di una grande squadra e non era ancora sicuro dei propri mezzi, quello scotto sia già stato pagato in parte nella gara di ritorno a Old Trafford, dove l'Inter perse ma non demeritò, no, certo, così tanto, e invece adesso debba fare veramente la partita perché non deve prendere gol, questo è fondamentale, questo decisivo, cioè massima attenzione a Drogba e ad Anelka, posto che Ancelotti li metta tutti e due in campo dal primo minuto, perché io ho mi tengo un ragionevole dubbio sul fatto che magari Anelka possa partire dalla panchina. Ma detto questo, l'atteggiamento dell'Inter io credo debba essere quello di una squadra che va dentro per segnare, va dentro, certo, per segnare da subito, senza dover aspettare, senza dover rischiare di lasciare la partita in mano per agli altri. Per sfruttare stavolta il turno casalingo, insomma, no? L'Inter oggi ha la personalità per sfruttare le assenze degli altri e per mettere subito la partita sui binari che interessano a José Mourinho. Certo. Anche se viene a tre pareggi in campionato, non è un momento brillantissimo, però insomma, domani sera è dentro fuori ed è la gara chiave, più ancora di quella di ritorno, io credo. Sì, credo che questa volta uno 0-0 potrebbe anche teoricamente essere preso in maniera migliore rispetto però al campionato. Però se loro hanno quella difesa lì li devi bucare, insomma. È difficile che il Chelsea con una difesa così non prenda gol, e soprattutto non devi mai andare a Stamford Bridge con l'obbligo di vincere, insomma. Inter Chelsea domani sera alle 20:45, sì, 2:15 prima, per ragioni geografiche e di temperature, giocano CSK Mosca e Siviglia. Stasera insieme a Olympiacos Bordeaux c'è il ritorno in campo del Barcellona a Stoccarda, nell'andata di un altro ottavo interessante. Barcellona che è come sempre in testa della classifica a gonfie vele, nonostante molti infortuni, insomma molti problemi di organico, qualche problemino ambientale, se non altro a Barcellona, comincia ad averlo, stranissimo tra l'altro. Beh, sai, intanto questa è una squadra che ha vinto tutto e quindi quest'anno già comunque vincerà meno dell'anno scorso, anche se dovesse rivincere tutto quello che tutte le competizioni nelle quali c'è, perché la Coppa del Re non la può più rivincere. Detto questo, stiamo sempre parlando della capolista. Stiamo parlando della capolista con un sacco di problemi fisici. È vero che in questo momento Guardiola può recuperare sia Ibrahimovic, che ha problemi alla caviglia, che Xavi, che ha un problema alla coscia, che Dani Alves. Non credo proprio che tutti e tre giocheranno contro lo Stoccarda, credo che almeno un paio però Guardiola li possa schierare. Il ritorno di Yaya Touré è stata una addizione nuovamente importante. È vero, il Barcellona non ha incantato contro il Racing, però se andiamo a leggere il tabellino, 7° minuto Iniesta, 29° Henry, 34° Marquez, va bene, da calci da fermo, va bene, però in 34 minuti era già 3-0. Ora, chiedere al Barcellona sempre di recitare come se fosse la prima alla Scala, io credo che sia anche sbagliato, ingeneroso. Questa è una bella espressione, è una bella immagine. E sai chi è stato a chiedergli? È stato Cruyff in particolare, che ormai si è messo, allora continuiamo con questa immagine, si è messo in... alla barcaccia stampa per restare alla Scala col suo taccuino, e ha scritto l'indomani che quella contro il Racing era stata la peggior gara del Barcellona sotto la gestione di Guardiola. Ora, per carità, avendo sempre giocato strabene, questo Barça ci può anche stare che fa una partita un po' sottotono, però insomma, nel frattempo, pieno di rincalzi, hai dato 4 perette agli avversari, no? Sì, perché comunque la differenza tra il Barcellona e queste squadre è davvero di 3-4 gol anche in una serata e di non particolare ispirazione. Non dimentichiamoci che il Barcellona può anche legittimamente tenersi qualche energia per altre gare. La Liga, certo, è la comanda, ma non è ancora vinta, assolutamente non è ancora vinta. No, anzi. È apposta, e la Champions League è una gara a ostacoli, perché il Barcellona adesso ha lo Stoccarda che ragionevolmente lo eliminerà senza fare tanta fatica, ma poi diventeranno più complicate le partite, sì. Quindi ci sta anche che Cruyff la critichi, perché Cruyff è uno che insomma, oltre che da giocatore, anche da allenatore ha fatto vedere no, ma cose. Poi il gusto è uno legittimato, certo, anche per il suo gusto estetico assoluto, cioè non parliamo, non tocchiamo il profeta, che poi tra l'altro in Catalogna è veramente il profeta a vita, no? Oltre che commissario tecnico della Nazionale di Catalogna, certo. È un bel problema quando ti criticano perché hai vinto 4-0. Ma sì, difatti. Sono sciocchezze momentanee. E un po' meno la sciocchezza è il fatto che il fisco italiano, leggo sul Sole 24 Ore di stamane, chieda 1,83 milioni di euro a Guardiola per un problema di tasse non pagate. In realtà Guardiola questa cosa è stata notificata alla vigilia di Inter Barcellona il 16 settembre scorso. Il suo avvocato ha fatto notare che non riguarda questo mancato versamento, non riguarda compensi incassati in Italia, bensì diritti d'immagine gestiti da una società olandese, e sostiene di aver pagato che il prelievo fiscale fosse stato attuato in Olanda. In Italia non sono... materia commercialistica. Esatto, a Brescia non sono convintissimi che sia così, la Commissione Tributaria Provinciale non è convintissima che sia così, ma nel frattempo ha già sospeso gli effetti della prima cartella esattoriale, quindi questa insomma, curiosa vicenda raccontata stamane dal Sole. Chiuderei con Mancini, perché mi pare che passato... per carità, i risultati stanno discretamente arrivando, però quel feeling immediato che si era creato al suo arrivo a Manchester mi sembra si stia un po' attenuando. Sì, soprattutto perché i giocatori hanno cominciato a vedere in lui non più soltanto un allenatore, ma anche un tiranno, nel senso che gli allenamenti di Roberto Mancini sono allenamenti duri, sono allenamenti anche ripetuti. Gli inglesi, ma non lo scopriamo certo oggi, molte squadre inglesi si allenano in maniera non particolarmente, come dire, brillante dal punto di vista dell'intensità. Però se andiamo a scorrere la classifica del campionato inglese, le prime sei squadre, cioè quelle che vanno in Europa, il Chelsea è allenato da un italiano, l'Arsenal è terzo, allenato da un francese, il Manchester City è quinto ed allenato da un italiano, il Liverpool è sesto ed è allenato da uno spagnolo. spagnolo, cioè ci sono solo Redknapp e Ferguson, sì, di origine britannica. Vorrà dire qualcosa, credo. Sì. Da questo punto di vista penso che i giocatori debbano farsene una ragione, debbano lavorare di più e debbano essere più pronti anche fisicamente. Io credo che da un certo punto di vista Hughes non fosse un pessimo allenatore, però è probabile ed è possibile che si adeguasse ancora all'antico cliché dell'allenatore inglese o gallese. Io quando parlo di inglese in questo caso parlo di britannico, certo, cioè, certo, ci metto insieme di isole, anche Ferguson è scozzese, ma vale la matrice della scuola calcistica, insomma. Se gli allenatori della l'allenatore della nazionale inglese è Fabio Capello, ci sarà un motivo. L'ultimo allenatore inglese della nazionale dei Tre Leoni è stato McLaren e non si è qualificato nemmeno per gli europei. Certo. Credo che debbano farsene, ripeto, una ragione. I tifosi credo l'abbiano capito perfettamente. Infatti, quando ci sono allenatori bravi, ma anche stranieri, non hanno nessunissimo genere di problema. Mourinho ha vinto tantissimo al Chelsea e Mourinho è portoghese. Ancelotti sta comandando la classifica e Ancelotti è italiano. Quindi, secondo me non c'è proprio discussione. I giocatori devono, certo, allenarsi come dicono gli allenatori. Certo. Grazie per averci, Fabio, per averci raccontato soprattutto in che condizioni non brillantissime sta il Chelsea. Grazie, no? A voi, Gigi. Da questo punto di vista, a giugno gli interisti tiferanno contro l'Italia. Questo è l'ultimo messaggio arrivato sul display. Beh, però l'Italia di Lippi potrà rifarsi con Emanuele Filiberto e i suoi boys, no? E quindi credo che alla fine, sai, io penso che sia poi ora ad un certo punto di cominciare a metterla un po' così anche, no? Perché mi sembra che non sia poi questa cosa così seria, no? Per come si è svolta e per come si sta sviluppando. Continuiamo a parlare insieme. Antonio Brescia, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Non posso esimermi da fare i complimenti ovviamente per la trasmissione. Io avevo chiamato ancora ieri perché volevo parlare di Mourinho, ma adesso sinceramente non ce ne ho più voglia. E volevo solo dire una cosa. Io sono un tifoso juventino abbastanza tiepido, ho 56 anni, e ho solo negli occhi solo una grande Juventus. E io penso che lei possa capire qual era. E quando ancora adesso sento questi nomi, io sinceramente mi emoziono tantissimo, perché per me quello era il calcio vero. Beh, Antonio, insomma, il calcio vero non è stato, per lei sarà stato quello, io credo che per ciascuno di noi il calcio sia qualcosa di diverso da un altro, perché c'è una squadra, perché c'è un'emozione, perché c'è questo o c'è quell'altra ancora. Adesso stiamo purtroppo parlando d'altro e stiamo purtroppo parlando poco di pallone. Cioè, ci abbiamo provato prima con Fabio Tavelli, no? Perché adesso insomma, nel calcio la partita che conta, la partita che davvero conta è sempre quella che si deve ancora giocare, e quindi per l'Inter è diventata quella di domani sera. Tant'è vero che le squalifiche di ieri non riguardano più sabato scorso, riguardano domenica prossima, quando l'Inter dovrà giocare a Udine in condizioni veramente molto ma molto difficili. Conta sempre quello che viene. Credo che per domani sera l'Inter possa, non dico giovarsi, ma penso che sul piano nervoso, sul piano della compattezza, degli intenti, eccetera, questa stangata riuscirà a girarla in positivo, almeno lo spero. Tutto il contrario di quello che avrebbe dovuto fare contro la Sampdoria, perché io credo che in realtà quello che è successo l'altra sera nasca da un approccio clamorosamente sbagliato alla partita, e questa è la cosa di cui tra una manetta e l'altra si è parlata troppo poco. Cioè mi domando, avendola poi vista anche la Sampdoria sul campo e soprattutto nel secondo tempo, ma valeva la pena di aggredirla a quel modo, una squadra come la Sampdoria? Cioè valeva la pena di rischiare tutto quello che l'Inter ha rischiato e poi ha puntualmente pagato, o non valeva piuttosto, quattro giorni dal Chelsea, non era meglio mettersi tranquilli, giocare magari sotto ritmo e sapere che tanto prima o poi o Milito o Pandev o Snyder o uno di questi gliela impastavano, no? È questo che io trovo di un'assurdità senza confini. Ma può darsi che sia io, e può darsi che il problema sia io e che non sia lo scienziato che l'ha impostata diversamente, evidentemente. Alberto da Torino, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Garanzini. Guardi, sarà questione di telepatia. Vorrei ripartire proprio da quest'ultimo punto che lei ha toccato, ovviamente l'argomento è Mourinho. L'impegno della Sampdoria. meglio, lei ha parlato di impegno dell'Inter, io vorrei capovolgere il discorso, l'impegno della Sampdoria, una squadra che nel secondo tempo si è ritrovata con 11 uomini contro 9, che non ha fatto un solo tiro in porta, francamente mi dà molto, molto, molto da pensare. Vorrei dire tante cose adesso su questo argomento, però il tempo è poco e vorrei cercare di circoscriverlo veramente ad ancora pochi secondi. Sì, ma l'ha già detto, mi sembra che l'abbia già detto anche in maniera abbastanza chiara. Non convocherò per questo l'ufficio inchieste, ma insomma diciamo che lei ha dei sospetti su questo atteggiamento. Io non credo a questo, credo che la Sampdoria sia rimasta da un lato un po' intimidita da quello che è successo nell'intervallo e che ieri è stato anche sanzionato dal giudice sportivo, e questo era stato chiaro fin dall'intervento del direttore generale Marotta a caldo subito dopo la partita. L'altra parte invece è che la Sampdoria si è trovata improvvisamente sconcertata a dover recitare una parte non facile, perché quando ti trovi a dover condurre le danze in condizioni di netta superiorità fisica, psicologica, numerica, tutto quello che vuoi, non è semplicissimo calarsi nella parte. La Sampdoria non ci è minimamente riuscita, denotando da un lato questo blocco psicologico e dall'altro indubbiamente anche dei limiti di mediocrità, soprattutto offensiva, che mi sono sembrati evidenti. A maggior ragione alla luce di questo domando: ma contro la Sampdoria era proprio il caso di andare in campo con la bava alla bocca e i tacchetti con la punta rifatta, anziché giocarsela sereni, capitalizzare energie per il Chelsea, fisiche e soprattutto nervose, e aspettare che Milito risolvesse la pratica? Questa è la domanda, parer mio. Cagliari, da Cagliari ha chiamato Massimo, buongiorno. Salve, buongiorno signor Garattini. Dica. Niente, volevo fare una piccola considerazione su Mourinho. Ieri leggevo nel Corriere che lui ha detto, in riferimento all'allenatore del Napoli Mazzarri, che praticamente un asino si può sforzare a lavorare tanto, ma rimarrà sempre un asino, non diventerà mai un cavallo di razza. Massimo, non l'ha detto personalmente lui, l'ha fatto dire al suo portavoce, perché tra le altre peculiarità del soggetto c'è anche quella che lui può essere in silenzio stampa, ma se in silenzio stampa lui fa parlare il portavoce. Tenga conto che all'Inter c'è un ufficio stampa che, come dire, oltre a esserci, a essere ben organizzato e ben funzionante, diciamo che è numericamente ben strutturato, ma non basta evidentemente, perché ci vuole il portavoce personale, il quale anche in assenza del titolare, in volontaria assenza del titolare, come dire, si occupa del disbrigo degli affari urgenti, cioè polemizzando a destra, a sinistra, rispondendo, smaltendo la corrispondenza arretrata e magari aprendone di nuova. Ditemi voi se dobbiamo prendere sul serio queste cose, speriamo sia l'ultimo giorno. Riccardo Catania, buongiorno. Buongiorno dottore, grazie per darmi spazio. No, io penso che questo Inter-Chelsea è la partita della verità, nel senso che l'incontro fra l'allenatore più misconosciuto, che secondo me è il migliore allenatore che c'è stato in Europa, che è Ancelotti, che ha vinto due Coppe dei Campioni, di cui la seconda specialmente veramente incredibile, perché francamente il Milan non era più squadra da Coppa dei Campioni, eppure ha saputo portarla al momento giusto, con la forma giusta e la capacità giusta di vincere. È il più pubblicizzato, che ha fatto molto bene al Porto sicuramente, ma per il resto non direi che le vittorie in Inghilterra con la squadra che avevano siano state questo grande capolavoro. Quindi ora è il momento in cui il signor Mourinho dovrà veramente dimostrare che è migliore dell'altro allenatore, che sì, Riccardo, dire, secondo me è veramente il migliore. Riccardo, io di partita la verità credo che insomma, ce ne sia un elenco interminabile, perché il suo stessissimo discorso di oggi l'ho sentito fare un anno fa quando l'Inter giocò contro il Manchester. Poi l'ho sentito riecheggiare in buona parte sei mesi fa quando l'Inter giocò contro il Barcellona. Cioè, c'è sempre una partita della verità e c'è sempre una partita che deve restituirci finalmente l'immagine di un grande tecnico. Per carità, speriamo tutti insieme che sia domani sera. purché non venga presentata come inedita, ecco, questa della partita della verità, perché come minimo è la terza volta, insomma, che succede. Ho parlato di Marotta prima e delle sue dichiarazioni di quella sera, queste invece sono fresche di giornata, sentiamo. Devo semplicemente dire che sicuramente sabato sera non è stata una pagina bella del nostro calcio, non entro nei particolari perché giustamente ho il massimo rispetto per le vicende nerazzurre, però non mi sarei aspettato vivere una serata del genere. Beh, insomma, più chiaro ancora, nel rispetto del formalismo e delle formalità, più chiaro ancora. Più significativo, ecco, forse non chiaro, più significativo ancora di sabato sera. Il personaggio più significativo in assoluto di tutta questa vicenda, non abbiamo parlato né ieri né oggi, si chiama Beppe Bergomi comunque, perché qualcuno forse ricorderà che Bergomi ha giocato qualche partita nell'Inter, oltre che in nazionale, qualcuno forse saprà non farà fatica a immaginare che Bergomi è rimasto profondamente nerazzurro nell'anima, avendoci passato tutta una vita sportiva. Qualcuno lo avrà sentito sabato sera a caldo, pur con la misura, col garbo, ma anche con la grande competenza che lo contraddistingue. Qualcuno lo avrà sentito dire che l'Inter aveva completamente sbagliato partita, e a sbagliare partita e atteggiamento nervoso era stato il suo allenatore, che aveva non costretto, neanche indotto, ma che aveva trasmesso ai suoi giocatori un eccesso di nervi e che poi si era propagato per l'appunto sul campo, con le conseguenze che sappiamo. Amedeo ha chiamato da Lecco, buongiorno. Buongiorno, senta, io sono un tifoso interista comunque. Allora, io due cose, io mi auguro che domani sera l'Inter gli vengono espulsi tutti i giocatori, perché non può comparte questa partita qua. E il signor Muratti, che decanta tanto la sua bravura, la sua capacità di essere un presidente buono e bravo, perché non lo caccia col Mourinho lì? E con tutti i suoi collaboratori, gli Oriali, il Cambiasso, i Samuel, tutta la gente. Amedeo, e quindi cosa fa? L'Inter gioca domani sera con la Primavera. Io penso che, in maniera un po' meno cruenta di come la mette lei, io penso che siano esattamente questi pensieri che stanno attraversando la testa di Moratti in queste ore, ma già da sabato sera. Io penso che, se non è una decisione già presa, sia una decisione che verrà presa, e che ovviamente però intanto viene posticipata all'esito di questo doppio confronto col Chelsea, con l'augurio che Moratti si fa ovviamente che venga posticipata fino alla finale. Io credo che solo in caso di un esito veramente trionfale della stagione, che lo metta nelle condizioni di non potere, io credo che credo che anche Moratti sia dell'ordine di idee che la misura è colma, ma è una sensazione evidentemente, su cui però credo che, insomma, non dico una scommessa, ma credo che abbia qualche robusta percentuale di realizzarsi, ecco, ovviamente alle condizioni che ho premesso. Il ripasso di storia affidato come sempre a Nicola Filippone. Sembra ieri. 23 febbraio 1958. Alla Piani di Padova, gremito fino a bordo campo, va in scena una sorprendente sfida al vertice tra i padroni di casa, allenati da Nereo Rocco, secondi in classifica, e la Juve di Boniperti, Charles e Sivori, saldamente in testa dalla prima giornata. I veneti riescono a bloccare sull'1-1 una delle formazioni bianconere più forti di tutti i tempi. Al vantaggio del Padova, siglato dall'argentino Umberto Rosa, risponde Gino Stacchini a 10 minuti dal termine. La Juve vincerà il campionato infliggendo 8 punti di distacco alla Fiorentina, seconda classificata. Il Padova di Rocco chiuderà invece al terzo posto, miglior piazzamento di sempre. Altri tempi e altre letture. Questa mail, anche per la sua capacità di sintesi, Andrea Vaccari, è molto bella. Non capisco tutto questo stupirsi per il Lippi Sanremese. Lui con le triadi si è sempre trovato a suo agio. Effettivamente non è male, caro Andrea Vaccari. Antonio Di Pollina, critico televisivo di Repubblica, ma in questo caso e in questa veste, con una rubrica del martedì sull'edizione di Milano, soprattutto tifoso nerazzurro. Scrive: l'Inter che resiste e quasi vince in 9 è sì una dimostrazione di forza, ma significa anche che quella Samp non valeva assolutamente né le manate in faccia né le isterie né altro. E già che ci siamo, fissiamo il punto. Le manette sono fatti suoi. Chissà che voleva dire. Quello per cui invece dovrebbe chiedere scusa, lo special, è la scena successiva, quella delle risate teatrali sull'azione di Eto'o. Una roba che non ricordiamo di avere mai visto nel calcio ad alto livello, nonché un atteggiamento che gli è costato 3 giornate di squalifica. Questo è il punto. Giro questa risposta di un interista che vi garantisco, Doc, ma proprio Doc con la D maiuscola, a qualche messaggio che insomma, era arrivato a proposito dell'atteggiamento trascinatore di Mourinho e del merito di aver pareggiato in 9. Il merito di aver pareggiato in 9 c'è, il merito di aver vinto, cioè di non aver vinto giocando 11 contro 11 con quella Sampdoria, che credo sia un demerito molto superiore al merito di aver pareggiato in 9. Giuseppe Bologna, buongiorno. Salve signor Garanzini, buongiorno. Ascolti, io volevo intervenire sull'Inter. Sono d'accordo con tutto quello che si è detto, perché il comportamento di Mourinho è stato vergognoso, per carità, le espulsioni c'erano tutte, però di tutto si è parlato, di una cosa no però, anche perché per quello che ne sappia io, il giallo che ha dato a Pazzini sulla reazione che ha avuto su Lucio. Il regolamento su una reazione così non parla di giallo. È quello che di tutto si è parlato, ma si è detto anche che Tagliavento abbia arbitrato benissimo. Secondo me no, se uno analizza la partita cronologicamente, dopo l'espulsione di Samuel, giustissima, io non capisco quel giallo su una reazione da dove lo hanno. Non è stata una reazione violenta, Giuseppe. Non è stata una reazione violenta, e l'arbitro probabilmente può aver tenuto conto che lui se l'ha sgambettato. Cioè, comunque, voglio dire, ha aperto una gamba perché ormai stavano perdendo i nervi tutti, anche lui che era appena entrato, no? Che quindi doveva essere mentalmente più fresco. E poi quell'altro ha avuto una reazione, ha giudicato così, insomma, nessuno ha scritto che o ha detto che Tagliavento abbia azzeccato tutto al 100%. In una sera così, io credo che molti altri arbitri, per non dire tutti no, ma la maggioranza sarebbero andati nel pallone completamente. Lui è riuscito in quelle condizioni ad azzeccare un buon 80% di quello che gli è toccato decidere, e che tra l'altro era davvero tecnicamente complesso, oltre che ambientalmente. Se poi vogliamo metterci a fare le pulci su cosa, stando seduto in poltrone e rivedendo con calma, beh, allora abbiamo stravinto, no? Come sempre, non è una novità. Proviamo a vedere come il resto del pianeta calcio italiano, intendiamoci, ha preso questa tutto quello che è accaduto. Sentiamo questo assemblaggio di voci. Occorre avere la consapevolezza della responsabilità che si ha, perché le emozioni le abbiamo tutti e le abbiamo forse nella stessa maniera, nello stesso modo. Si tratta che ognuno di noi, quando ha un determinato ruolo, deve capire il contesto nel quale opera. Credo che è importante, se uno ha qualcosa da dirlo, farlo in modo rispettoso e farlo contribuendo positivamente. Credo che abbiamo tutti da guadagnarci di un calcio più forte, credo che è quello che conta per la Serie A in generale. Ma è lo sport preferito di tutti, occuparsi degli arbitri. Capitano anche cose eclatanti, ma insomma il nostro dovere è quello di fare in modo che migliorino, ma stemperare anche le grandi polemiche che ci sono, no? Erano nell'ordine Giancarlo Abete, John Elkann e Diego Della Valle. A proposito di Abete, leggo dalla Gazzetta che Moratti è particolarmente furibondo, io insisto, credo con Mourinho soprattutto, ma anche con Giancarlo Abete. Perché? Perché, e infatti l'intervista alla Gazzetta lo dimostra, perché sostiene Moratti che, ed è vero a parer mio, che in altre occasioni di questo genere, cioè alla vigilia di una partita internazionale del calibro di quella di domani sera, le sentenze del giudice sportivo erano state differite non tutte insieme, perché è chiaro che ieri il giudice doveva decidere a proposito delle quattro squadre impegnate domani nei recuperi, cioè di Fiorentina, Milan, Udinese e Cagliari, però avrebbe potuto, e in passato è stato fatto, come dire, stralciare tutto quello che riguardava Inter-Sampdoria e differire le sentenze, senza minimamente entrare nel merito poi delle sentenze stesse, differirle al giovedì. Su questo io credo che Moratti abbia ragione. Andrea da Milano, buongiorno. Buongiorno Garanzini, io tornerei ancora sull'argomento del giorno che riguarda naturalmente Mourinho e l'Inter in particolare. Ho seguito la partita sabato sera, come seguo peraltro da anni tutti gli anticipi e i posticipi, e naturalmente devo dire che l'arbitro ha applicato il regolamento. Ma la cosa che noto ormai da parecchio tempo è che questo benedetto regolamento che viene allungato e ristretto a seconda delle situazioni poi venga alla fine applicato solo nei riguardi dell'Inter, perché non mi risulta negli ultimi 10 anni di aver visto una partita del Milan o della Juventus giocata in 9-11 dal trentesimo del primo tempo. Evidentemente nessuno. Non mi risulta che i difensori bianconeri o rossoneri siano poi così diversi da quelli dell'Inter. Però basterebbe Andrea, basterebbe che quelli della Juventus e del Milan si dessero i turni, no? Invece quelli di Juventus e Milan, intendo, quelli dell'Inter non se ne sono dati e quindi sono finiti fuori in due l'altra sera, e secondo me gli è andata ancora bene. Lei ha parlato degli ultimi 10 anni, credo che questo sia un intervento, a parte che è un intervento pilota da un certo punto di vista, e poi è molto significativo. Qualcuno le ricorderà un giorno o l'altro che di questi ultimi 10 campionati inquinati 4 li ha vinti l'Inter, almeno che sappia io, e che se ho letto esattamente l'Albo d'Oro. Carlo da Bologna, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Sono anch'io un tifoso interista. Uh-huh. Volevo allacciarmi a quello che ha detto il signore di prima. Ecco. Com'era l'arbitro di Bari? Al 27esimo c'era da cacciare fuori Bonera e dare il rigore al Bari, è stato dato? No, certamente no. E pensi Carlo, che questo Mourinho non lo sapeva ancora. Perché quando ha combinato quello che ha combinato sabato sera, non sapeva ancora che da lì a 24 ore il Milan non avrebbe avuto quello sconto arbitrale indubbio, oggettivo e indiscutibile. Pensi cosa avrebbe fatto? Altro che le manette, le pare? E la domanda successiva che le faccio io è la seguente: ma secondo lei si potrà andare avanti così? Provi a rispondere a questa semplicissima domanda e poi vediamo tutti insieme se riusciamo a metterci uno stop o se invece non ci riusciamo, perché magari vi divertite così. C'era Filippo Aureggi in regia, c'era Flavio Suardi in redazione. Buon pomeriggio a tutti.